e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cara Deborah, buon Santo Stefano, come sta andando il giorno dopo la grande festa? Digerendo, direi. Chissà se si stanno riprendendo anche i nostri amici che ci stanno ascoltando da casa. Allora, consigli con i nostri esperti per una remise en forme a 360 gradi. Remise en forme del corpo e anche della mente. Ma anche per i denari, aggiungo io nella seconda parte, perché continueremo con i consigli di lettura. Tre libri utili a trovare nuovi spunti per la gestione del proprio denaro che ci verranno presentati direttamente dai loro autori. Allora direi di partire. Natale con i tuoi e Santo Stefano rimettiti come puoi. Si potrebbe parafrasare così il vecchio adagio, perché è inutile nasconderlo, il Natale lascia il segno. Pranzi, cenoni, brindisi, panettoni. Alzi la mano chi oggi non si sente un po' appesantito. È normale, abbiamo bisogno solo di un break, di una pausa. Seguitemi allora, perché oggi, in questa prima parte del programma, faremo una sorta di corso per una remise en forme del corpo e della mente. Tanti consigli dei nostri amici che nel corso della trasmissione ci verranno a trovare. Allora iniziamo col primo consiglio. Il primo consiglio è seguite cuore denari, sempre, anche per l'anno a venire. Il secondo è sedetevi e respirate con me. In linea con noi Daniele Belloni, maestro yoga dello spazio Shanti di Milano. Daniele, buongiorno. Buongiorno a te Nicoletta e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora Daniele, quali consigli dal mondo dello yoga per riprenderci pienamente dopo aver esagerato un po' coi piaceri del Natale? Beh, un consiglio triplice, secondo i tre livelli dell'esistenza umana che sono poi alla base del sistema yoga, vale a dire corpo, respiro e mente. Un consiglio che parte dal corpo, quindi fare una bella passeggiata, utilizzando, se non si è in mezzo alla natura, un parco cittadino, un giardino pubblico o anche un viale alberato, insomma qualunque spazio adatto all'esercizio. Attenzione, non si tratta solo di camminare, ma di aggiungere un elemento di presenza mentale. Nello yoga chiamiamo questo esercizio camminata contemplativa, quindi si tratta di eseguire consapevolmente un passo dopo l'altro, sentendo il nostro respiro, camminando lentamente, rilassando la fronte e assaporando ogni singolo passo e ogni singolo respiro. Quindi lasciamo a casa cellulari, smartphone, cuffiette. Certo, Daniele, tutto a casa. Ecco, regaliamoci, siamo solo noi. Regaliamoci questa camminata contemplativa. E così stiamo già parlando, Daniele, di respiro e di mente. Esatto Nicoletta, perché tutto è interconnesso, quindi secondo aspetto del nostro consiglio, il respiro. Una buona respirazione accompagnerà il nostro camminare, una respirazione altrettanto consapevole che pone particolare attenzione alla fase espiratoria connessa al rilascio delle tensioni fisiche, alla liberazione di tossine e connessa allo stesso modo all'abbandono delle tensioni mentali. Quindi espiriamo con particolare attenzione, allungando se possibile anche solo di qualche secondo, l'espirazione rispetto all'inspirazione. Respirando in questo modo ci sentiremo rilassati e recupereremo lucidità mentale. Ed eccoci al livello della mente, siamo arrivati al terzo punto. Certo, a questo livello possiamo suggerire una particolare riflessione, quasi una contemplazione sulla qualità del tempo che abbiamo davanti. A molti in questo periodo dell'anno piace consultare l'oroscopo, sì, per capire le indicazioni delle stelle, tutto quello che ci attende. Si fa, guarda, anche se uno non ci crede, un po' si sbircia. Ecco, brava. Bene, anche qui lo yoga vuole aggiungere qualcosa, una sorta di determinazione nel far sì che tutto proceda per il meglio, verso il meglio. I maestri malayani dicono: tu sei l'architetto della tua vita, tu decidi il tuo stesso destino. Quindi il nostro consiglio è di guardare avanti, facendo spazio alle cose nuove che sono in arrivo, liberi dai pesi legati al passato, alleggeriti dal bagaglio di cose inutili che abbiamo accumulato. Daniele, quindi in chiusura possiamo riassumere i tre consigli, che poi in realtà sono uno. Certamente, camminiamo consapevolmente, respiriamo profondamente, guardiamo avanti coraggiosamente. Grazie a Daniele Belloni, maestro yoga dello spazio Shanti di Milano. Auguri, Daniele. A presto. Ciao Nicoletta e auguri a tutti, buon anno a tutti, a presto. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. E allora adesso che abbiamo di nuovo consapevolezza di noi stessi, proviamo a vivere le festività come un'opportunità. Pensiamo positivo, tra pochi giorni c'è un altro grande appuntamento, la fine dell'anno, e allora dobbiamo cercare di sfruttare al meglio questa manciata di giorni per chiudere al meglio il 2014 e iniziare con il piede giusto il 2015. E per farlo ho qua in studio con me Luca Voledo, naturopata, una delle colonne del nostro Daily Lab, diciamo la verità. Buongiorno, dottora Voledo. Buongiorno, buongiorno. Come sta andando questo giorno di detox? Bene, bene, soprattutto perché mi piace pensare a un giorno e anche ai prossimi giorni, visto che abbiamo un po' di giorni davanti, sì, a noi. Cade perfetto, perfetto, perché abbiamo proprio 3 giorni, per chi anche deve riprendere a lavorare, come farò io il 29, e molti naturalmente anche della redazione. Si e questi farlo, sono però, 3 giorni. Rinfrancati, ecco, per un detox di corpo, ma mi piace pensare anche a un detox de stress della mente, oltre che detox, quindi alleggerire anche le tossine mentali oltre a quelle del corpo, i pensieri. Alla fine dell'anno è un classico, no? Si fanno bilanci, ho fatto bene, ho fatto male, quali opportunità non ho colto, poi si iniziano a fare progetti, viene un po' di ansia, riuscirò, non riuscirò. Allora, prendiamoci questi pochi minuti, questa prima parte del programma, e facciamoci guidare dal dottor Voledo per cercare un pochino di regalarci un po' di benessere, qualche minuto di benessere. Tanti consigli da applicare non solo oggi, ma nei giorni a venire, e anche, perché no, farceli talmente nostri, metabolizzarli e quindi tenerceli in tasca pronti per l'uso. Dottor Voledo, iniziamo? Molto volentieri. Una delle cose che mi piacerebbe consigliare agli ascoltatori di Cuore Denari più delle altre è quello di prendersi il tempo di concedersi un bel massaggio rilassante per il corpo e per la mente, fatto magari con il proprio partner, fidanzato, marito, moglie, amica. Certo, perché il massaggio ha dei benefici enormi, addirittura su patologie importanti. Pensa, questo lo citiamo perché merita di essere detto, uno studio fatto dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York ha visto che addirittura il massaggio allevia alcuni sintomi come la fatica, la depressione, l'ansia, persino nei malati di patologie oncologiche, sì, in maniera molto significativa. Noi ovviamente non stiamo parlando di questo, ma per dire le potenzialità e il potere del massaggio, che è comunque un formidabile strumento antistress. Concedetevelo insieme magari appunto a una persona che vi vuole bene. Non c'è bisogno di sapere chissà, di conoscere chissà quali tecniche, ci vuole semplicemente un ambiente confortevole, una temperatura confortevole, giusta, non troppo freddo, non troppo caldo, e magari l'utilizzo di alcune sostanze come gli oli vegetali, gli oli essenziali, che possono rendere ancora più piacevole questo massaggio, che magari ci permette anche di entrare più in sintonia, di prenderci un po' più di tempo con la persona a cui vogliamo bene. Quali oli possiamo usare? L'elenco potrebbe almeno essere... quelli possiamo prenderli, la persona che ci massaggia lì sarà un po' difficile, ma fra tutte la troveremo. La troveremo senz'altro. Suggerirei degli oli proprio che incentivano, promuovono un'atmosfera di comfort, come l'ylang ylang per esempio, che è un olio anti-ansia, che promuove sensazioni di benessere, piuttosto che la lavanda, che è un detensivo utile persino anche nel mal di testa. Il gelsomino antidepressivo promuove persino il sonno ed è molto buono per queste atmosfere appunto di intimità. E poi il sandalo per chi ama potevamo dimenticarci di lui, no? Gli aromi un po' di legno, questo è uno dei più afrodisiaci tra l'altro, se quindi dopo il massaggio si vuole far seguire con qualcos'altro. Vanno sempre miscelati in oli di base, in oli vegetali come l'olio di mandorle dolci, bravissima, piuttosto che anche il comune olio d'oliva, tanti ci si dimentica che l'olio d'oliva va benissimo, poche gocce, 5 gocce, 3-5 gocce per ogni, diciamo, grossolanamente cucchiaio di olio vegetale di base, si scaldano un po' le mani, poi si cosparge il corpo. Fa bene anche non solo a chi riceve il massaggio, ma anche massaggiare fa bene. Giustissimo, giustissimo. Il ricevente è il donatore del massaggio. Dottor Avoledo, lei ha parlato anche di ambiente, perché anche l'ambiente in cui viviamo può avere bisogno, può trovare giovamento da qualche piccolo, no, aggiustamento. E può stressarci, certo. E anche lui può essere intossicato, se, anche se in termini molto ampi, senza tirare in ballo il Feng Shui o Feng Shui, come dicono gli esperti, sì, che è la disciplina cinese che arreda le case, o il Vasco, in base, che è quella indiana, all'armonia, all'equilibrio, in base all'armonia, costruzioni in luoghi particolari, come disporre gli arredi. Però ci sono delle cose che possiamo fare molto semplici, anche in maniera graduale, per rendere il nostro ambiente, anche il nostro ufficio volendo, più confortevole. Per esempio portando un po' di natura in casa nostra, con non solo le piante a cui tutti spesso pensiamo, o i fiori recisi, però magari anche dei pezzi di legno lavorati, dei tronchi, dei sassi, delle pietre, dei tessuti in materiale naturale, come per esempio la fibra di cocco, un tappeto in fibra di cocco, oppure di cotone. Pensiamo per esempio anche ad alcune piante che possono addirittura diminuire l'inquinamento indoor, l'inquinamento domestico, che è un problema che soprattutto nelle grandi città esiste. Perché l'aria nelle nostre case non è certo di una qualità migliore di quella che respiriamo quando passeggiamo, quando andiamo a fare la camminata contemplativa suggerita da Daniele Belloni. Vero, perché gli arredi, i legni, le vernici, i coloranti, eccetera, eccetera, che si usano anche per le pareti, possono liberare sostanze nocive, e quindi possiamo utilizzare delle piante specifiche che ci possono aiutare per in qualche modo purificare l'aria. Sono piante anche di uso comune, sono sicuro che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici le conoscono, come il potos per esempio, lo spatifillo, il tronchetto della felicità, anche la gerbera, per certi versi hanno un'efficacia depurativa degli ambienti dimostrata dalla scienza. Le hanno usate persino nelle missioni aerospaziali negli Stati Uniti, e quindi possiamo usarle anche possiamo noi a casa nostra, dai, un noi po' americani. Dottor Avoledo, lei ha parlato di erbe e quindi non posso fare a meno di chiederle una bella tisana depurativa per tutti gli organi, magari, certo, da prendere adesso, dopo la fine delle feste, soprattutto vi si sente un pochino appesantito, ecceduto. Beh, perché mi guarda? No. Va bene. Esclusi presenti. Esclusi ovviamente. Presenti. Quali ci dà la ricettina? Sì, si potrebbe pensare, le erbe le conosciamo bene, le apprezziamo, possiamo farci confezionare, magari dal nostro erborista di fiducia, una tisana per tutti i organi emuntori, così si dice, gli organi deputati a eliminare le tossine, che sono i reni, l'intestino, la coppia, la pelle anche, ci si dimentica che è un organo emuntore, il fegato. E quindi pensiamo a promuovere il lavoro naturale di questi organi con un mix di piante. Ne suggerirei 5, che possono essere il cardo mariano, in particolare specifico per il fegato, sì, il carciofo, fegato, cistifelle, in parte anche reni, il tarassaco, che è un ottimo abbinamento soprattutto anche lui per i reni oltre che per il depurativo. Fegato depurativo. Il tarassaco c'è sempre, il tarassaco in tutte le tisane, è un po' come il prezzemolo per le come vero, no? Allora, il tarassaco, è un classico dell'erboristeria. La bardana, che è un depurativo fegato-pelle, e infine un depurativo specifico per i reni potrebbe essere la verga d'oro, Solidago virga aurea. Si fa una miscela di queste erbe in taglio tisana, così come ci si suol dire, in proporzioni uguali, un cucchiaio per tazza d'acqua, si lascia in infusione una decina di minuti coperto, e poi si filtra e si sorseggia e si consuma un paio di volte al giorno per alcuni giorni, per aiutare, come dire, a riprendere il ritmo giusto dei nostri organi depurativi. Quindi ripetiamo le erbe: cardo mariano, carciofo, tarassaco, bardana e solidago virga aurea, verga d'oro. Pensavo che se ne dimenticasse qualcuno, invece la sapeva a memoria. Allora sempre più difficile. Vediamo. Oggi giorno di festa, è difficile procurarsi subito queste erbe. Giusto. Proviamo a fare una tisana con fatta di ingredienti che ciascuno di noi può trovare, magari a casa propria, in frigorifero, nella dispensa. Io ho ancora qualche erbetta nel mio balcone, Il rosmarino ce l'ho, la salvia, ho un po' di maggiorana, non so se serva, un po'... Poi basta. Poi ho altre piante che immagino non siano commestibili o adatte per la preparazione di tisane. Possiamo dare qualche consiglio? Queste erbe sono tutte utili, possono essere utilizzate per scopi diversi. Però non le piacciono tanto. No, mi piacciono, proprio per emergenza possono essere molto buone. Poi che cosa possiamo avere? Arance, mandarini. Arance, mandarini che non si prestano per tisane, ma magari a Natale si usa, abbiamo parlato forse anche in qualche altra occasione, lo zenzero come ingrediente per alcune ricette, per i biscotti. E lo zenzero si possono preparare anche delle tisane, un tè allo zenzero, oltre che usarlo magari più generosamente in cucina, perché lo zenzero è antinfiammatorio grazie ai gingeroli che contiene, è un antinausea anche per la gravidanza senza eccedere con le quantità, quindi per i piccoli dolori, sì, per questa digestione. Grande radice un po', no? Sì, se ci sente un botanico ci sgrida, sì, perché però è un rizoma. È un rizoma, che è un fusto sotterraneo, però possiamo chiamarlo sembra radice. No? Un po' un topinambur, esatto, molto simile. Si vende ormai al supermercato con facilità, certo. Lo zenzero fresco si conserva anche bene in casa in frigorifero, certo, per anche alcuni, alcune settimane. Sì, va pelato quello che troviamo con le, diciamo così, le bucce, anche se non sono bucce, un po' più legnose, un po' più dure, va pelato con un pelapatate o un coltellino. Invece quello un po' più tenero, più giovane, può essere utilizzato tal quale. E per fare una tisana a base di zenzero, facilissima, acqua bollente e o lo zenzero, dopo averlo pelato, se è il caso, grattugiato, diciamo 3 cucchiaini per tazza, o anche in fettine sottili. Le possiamo lasciare in infusione anche un quarto d'ora, si filtra e abbiamo una bevanda buona, da un buon sapore speziato, utile anche per esempio per i raffreddori, per trovare conforto, raffreddore, influenza. Per i più ardimentosi si può addirittura aggiungere uno, per parlare proprio di cose che abbiamo in casa, un pizzico di peperoncino. Mi piace, un po' piccantello. Un piccantello, oppure una versione un po' più dolciastra, se non si vuole aggiungere dolcificanti che insomma ci piacciono fino a un certo punto, come miele, queste cose, che meglio sarebbe di no, della cannella. Cannella e zenzero, due profumi, due aromi natalizi al massimo, e ci aiutano... Vuol dire in questi giorni anche di freddo. Quindi zenzero fresco, non zenzero candito, che tra l'altro è buonissimo. Zenzero non è buono, ma è meglio di no. Buonissimo. È buonissimo. Però. Zenzero fresco oppure anche zenzero essiccato in polvere va bene, ma ha meno sapore e meno contenuto di gingeroli, che sono quelli che impartiscono il sapore caratteristico dello zenzero e anche le sue proprietà però. Allora, noi continuiamo il nostro programma di Remise en Forme. Abbiamo parlato di massaggi, abbiamo aperto con la nostra passeggiata contemplativa, poi un massaggio, poi una tisana che proprio per depurativa, no? Che va a far lavorare bene i reni, intestino, fegato e anche la nostra pelle, che da questi magari pranzi e cene di Natale rimane un po' in qualche modo irritata, viene fuori sempre qualche brufoletto quando proprio devi avere una bella festa, eccolo lì. Comunque non guardiamolo, dottor Avoledo, abbiamo utilizzato lo zenzero, quale altro ingrediente mettiamo nel nostro programma di Remise en Forme? Ingrediente depurativo? Possiamo mettere anche un ingrediente che ci aiuti, come diceva lei in apertura, a recuperare proprio energia per affrontare l'anno in forza, perché queste vacanze sono anche un'opportunità, oltre che per fare le cose che finalmente ci piacciono, leggere, vedere gli amici, ascoltare un po' di musica, fare una passeggiata, sono anche l'occasione per recuperare energia. Magari possiamo scegliere alcuni alimenti da inserire nella nostra dieta e affrontare quindi il nuovo anno carichi, perché le vacanze servono anche a questo, certo, a per ricaricarci, riposarsi, ma anche a fare il pieno di energia. Io penso al cioccolato. Il cioccolato senz'altro è un toccasana per anche la mente, oltre che per il fisico. È importante ricordarsi di consumare il cioccolato giusto, però non quelle cose quello che fondente. Hanno solo la parvenza del cioccolato, perché il cioccolato bianco per esempio ha tutto tranne che cacao. Fondente al 80-85% di cacao, addirittura anche di più se si gradisce, cosa che si può fare tra l'altro arrivandoci per gradi. Si può passare dal 70%, poi al 75%, poi all'80%. È dura, è la 90%. Vita. tanta. Abituarsi sempre a di più a un cioccolato sempre più fondente. Si lascia sciogliere un quadratino e si prova. Dei benefici anche per la fame nervosa, serotonina, meccanismi molto interessanti. Se vogliamo però anche delle soluzioni un pochino certo, più... Certo, il cioccolato viene cioccolato sempre, viene, no? Per dire energia è piacevole, ma però c'è di più. Mi piacerebbe ricordare ai nostri ascoltatori, per esempio, un rimedio molto interessante per recuperare energie e vitalità in tempi ragionevolmente brevi. Adesso appunto dai, bravo, i negozi che ce sono lo segniamo subito. Che è il ginseng. Il ginseng è un altro rimedio tradizionale, soprattutto dall'estremo oriente, che viene utilizzato da migliaia di anni. Si trova anche lui ormai con relativa facilità. Non tutto il ginseng è di grande qualità e il ginseng è un ottimo rimedio da prendere per 2 o 3 settimane per avere degli effetti, perché spesso le erbe non hanno degli effetti così rapidi. Il ginseng invece sì, Panax ginseng, sto parlando del ginseng orientale, Panax ginseng, non Panax quinquefolium, che è il ginseng americano, che anche lui è molto interessante, ma questo ginseng molto... L'americano lo lasciamo no, un po' va lì. Benissimo anche lui, ma sto parlando di ginseng classico. Si prende anche delle versioni liquida, per esempio, un cucchiaino alla mattina. Basta spesso un cucchiaino, perché in alcuni casi può essere molto eccitante, molto tonico, soprattutto alla mattina. Quindi, piuttosto che alla ecco, sera. Ecco, mai alla sera. Mai alla sera, non in chi ha la pressione tendenzialmente alta, non trattata, e si avanti per 2 o 3 settimane, non di più. In questo periodo si cominceranno con una buona dose di energia, magari dopo aver passato appunto un po' di giorni di festa che ci hanno un pochettino lasciato spossati. Quindi unica controindicazione le persone che sono in terapia antipertensiva? Sì, o chi soffre di pressione. Ecco. Di insonnia, sì. E di tutte quelle manifestazioni in cui in qualche modo un eccitante potrebbe essere di troppo, e prenderlo alla mattina comunque aiuta. E come sempre suggerisce il dottor Avoledo, quando iniziamo una di queste terapie naturali, magari ne parliamo con il nostro medico curante, nel caso soprattutto stiamo seguendo delle terapie per la cura di altre malattie croniche. Dottor Avoledo, io mi sento già meglio. Bene. Ecco, vado a prepararmi la tisana e intanto le faccio ancora i miei più cari auguri di buon anno a questo punto, auguri perché di a buon Santo anno. Stefano si fanno gli auguri dell'anno e anche di buon Santo Stefano. Grazie dottor Avoledo, continui a scrivere per noi nel nostro Daily Lab. Senz'altro. Aspettiamo un nuovo post. Volentieri, auguri. Cuore e denari. Tutta la frenesia della festa di Natale passata, in casa c'è tranquillità e silenzio, insomma oggi è il giorno dopo per eccellenza. Qui in studio con me però c'è Alberto Pellai, che in queste giornate di festa ci accompagna per i nostri percorsi di salute emotiva, direi. Alberto, intanto ciao. Ciao Nicoletta, il più lo abbiamo fatto, resta ancora molto da fare. E quindi lavoreremo sul benessere psicologico di queste feste. Oggi vogliamo approfittare di questa atmosfera più tranquilla e rilassata per invitarvi a fare un progetto di cambiamento significativo che vi porterà anche nell'anno nuovo. Ascoltate un po'. Sì, hai ragione, sei perfetta. Io non ho fatto niente di giusto in 15 anni. Tu non mi stai ascoltando. Non ti va mai bene niente. Non si è mai detto che tu ascolti. E tu ti attacchi a ogni minima cosa. E figuriamoci se ti prendi delle responsabilità. Non sto parlando di comunicazione, di sguardi, di qualcosa che dica che io e te siamo in sintonia. E già, questo è un litigio di quelli dove si perde il controllo di sé, si comincia ad urlare, probabilmente anche qualcuno tra voi all'ascolto ieri ha vissuto una situazione simile, perché Alberto, lo sappiamo tutti, le feste di Natale spesso sono luoghi di conflitto e non solo luoghi di pace e di tranquillità, no? E succede così, le nostre parenti, relazioni serpenti. Più intime, più profonde sono quelle che tirano fuori il meglio di noi, ma a volte anche il peggio di noi. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere un vero esperto. Il suo ultimo libro, Urlare non serve a nulla, edito da Burrizzoli, è da settimane, pensate, il bestseller di psicologia più venduto in Italia. Buongiorno a Daniele Novara, psicopedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Dottor Novara, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Alberto. Allora, il titolo del suo libro lo dice chiaramente: urlare non serve a nulla. E allora, io ogni tanto urlo però, e allora perché però, come così come faccio io, sarà capitato di urlare anche a lei, perché diventiamo a volte degli urlatori? Ci lasciamo andare, come dire, alle emozioni più frustranti e anche di impotenza, quindi pretendiamo di controllare gli altri creando allarme, perché in fondo quando si urla è come lanciare un allarme, diciamo, nel deserto, e speriamo che qualcuno lo raccolga e si metta sull'attenti, diciamo, e faccia quello che desideriamo noi piuttosto che quello che sta facendo. Vale molto per i figli che, come noto, specialmente durante le festività tendono a essere più distratti del solito, e magari proprio a Natale, insomma, non ci hanno fatto fare la figura che desideravamo con i nostri parenti, magari con i nonni che si vedono solo due o tre volte all'anno. Dottor Novara, mi dica la verità, è capitato anche a lei come genitore di trovarsi in quella situazione spiacevole in cui ci eravamo tanto raccomandati, bambini, mi raccomando, salutate, sorridete, dite grazie, non fate capricci, e poi al momento buono, via. Guardi, mi dica di sì, per favore. Le cose non stanno mai al loro posto, quindi io senz'altro faccio parte di quella categoria per cui faccio il pedagogista anche utilizzando i miei tanti errori, e quindi non ho problemi a confessare. Ecco, l'importante però che consideriamo che bisogna imparare, bisogna far tesoro di quello che ci è capitato, perché i nostri figli non vogliono, come dire, genitori perfetti, però genitori che una volta che hanno fatto uno sbaglio si rendono conto che è inutile essere recidivi, insistere sullo sbaglio, ecco. Dottor Novara, proprio immaginando che ci sono dei genitori in questo momento all'ascolto che si riconoscono nel profilo degli urlatori, ci sono, il manuale è pieno di strategie meravigliose, però diamo tre consigli concreti. Se questa mamma, se questo papà sono un urlatore, tre azioni di cambiamento rapido. Rapido è senz'altro quello di evitare il batti e ribatti, ossia di staccare la spina, e la strategia più efficace è quella di dire: ne parlo con tuo papà, ne parlo con tua mamma, ossia spostare immediatamente il profilo di contrapposizione utilizzando l'altro genitore come ancora di salvezza, insomma, letteralmente. Questo permette alle emozioni di non andare proprio in fibrillazione continua e in simmetria continua, perché altrimenti si crea lo scontro frontale, è molto molto difficile da gestire, specialmente con gli adolescenti. La seconda regola è quella più classica in assoluto, che però con i figli bisogna veramente scriversela sul comodino, ossia che non bisogna giudicare i figli come persone, ma stare sempre sul problema. Ecco che se magari proprio ieri durante il pranzo ha rovesciato tutto quello che poteva rovesciare sulla tovaglia magari nuovissima, ecco, non è il caso di attaccarlo dicendogli: lo sapevo, sei inaffidabile, sei sempre il solito, guarda che disastro combini proprio il giorno di Natale, ma guarda te come fai a comportarti così. Ecco, ma stare sul problema, ok? Abbiamo rovesciato una bottiglia di vino che bisognava e abbiamo bere. Macchiato tutta la tovaglia, ecco, quindi l'indicazione è non dare delle etichette, dottor Novara, perché sono quelle etichette in senso mortificante, perché le ricerche dimostrano che le aggressioni verbali ai figli creano depressione, e quindi so che appunto il dottor Bellai molto attento anche a queste considerazioni. Insomma, la depressione in adolescenza non è facile poi da gestire, e ci sono tante le situazioni di aumento anche per come dire questo motivo. E poi io direi un'altra buona indicazione è smetterla di prendere alla lettera tutto quello che i figli dicono, ecco, lasciare un po' correre, vero? Sì, che quella saggezza che io vorrei proprio liberare i genitori dalla ossessione di dover prendere alla lettera tutto. Ecco, i figli fanno i figli, i bambini fanno i bambini, gli adolescenti fanno gli adolescenti. Ecco, se ti dice che non ha più voglia di andare a scuola, insomma, prima di trasformare questa frase in un dramma cosmico, prendiamo un attimo di respiro, di tempo, e cerchiamo di capire che un figlio è in età evolutiva e quindi tende ad enfatizzare o col pensiero magico se è piccolo o col pensiero ormonale se è in adolescenza. Sei in adolescenza. Guarda, Alberto, tu sai che il libro del dottor Novara è proprio il best seller di psicologia più venduto in Italia, per cui c'è un bisogno evidentemente da parte dei genitori di trovare delle indicazioni, degli spunti di riflessione, di trovare un po' una strada nella gestione non solamente dei conflitti con i propri figli, perché coi figli non è che si passa la vita a litigare. Sì, io credo che, guarda, una cosa che colpisce tanto di questo libro, al di là dei contenuti ottimi, è proprio il titolo, perché immediatamente ti cattura. E per esempio quando lui parlava e diceva rovesciato sul tavolo, sulla tovaglia di Natale, a me immediatamente è venuta in mente una delle scene peggiori della mia vita di papà, la mia figlia Alice che fa cadere una bottiglia dell'olio in un giorno in cui io ero al limite di me stesso, ma non per colpa sua, e quello in auto, prova a pensare, pulire l'olio, hai capito? Quello ha scatenato il leone che c'è in me, e quindi io ho urlato ed effettivamente l'ho mortificata, e questo non serviva veramente a niente, non cambiava il corso della situazione. Però tutte le qualunque è naturale. Io devo dire, però, proprio riconoscendo in parte dentro di me l'urlatore che a volte è lì pronto ad uscire e a venire fuori, io mi sono dato una regola con i miei figli, cioè proprio per fare quel lavoro di prevenzione che a volte è davvero necessario. Noi ci siamo detti che a casa urlare non ci serve molto, e conseguentemente nelle situazioni conflittuali, soprattutto con i due figli più grandi, quando uno alza tanto la voce, che questo sia il figlio, che questo sia il genitore, si blocca tutto, si congela tutto, e la conversazione può andare avanti solo se noi abbiamo recuperato il tono della voce. Quindi quando uno urla, a quel punto non si sta più a parlare della causa del litigio, bensì si sta a parlare del tono di voce. Io dico a te: no, tu stai urlando in questo momento, quindi dobbiamo prima di tutto riabbassare la voce e poi possiamo continuare a urlare. Questo è un ottimo sistema di autoregolazione, perché urlare, come insegna il libro del dottor Novara, non serve a nulla. Dottor Novara, per gli adulti che tutt'oggi urlano con le loro mamme e i loro papà? Perché lo sa che i conflitti non finiscono mai e non hanno età. Insomma, è chiaro che i danni significativi si fanno fra genitori e figli quando i figli sono piccoli o comunque in età evolutiva. Penso che nessuno di noi possa avere strategie assolute per quanto riguarda i litigi nell'ultima parte della vita, che effettivamente rischiano di essere anche un modus vivendi, ecco, fra le persone. Io sono preoccupato dei più giovani, ecco, perché come diceva anche Maria Montessori, tutto quello che succede quando si è piccoli lascia un segno intangibile su tutta la vita. Poi insomma, quando uno è grande raccoglie quello che è stato seminato, però allo stesso tempo tende a stabilizzarsi e non c'è più la stessa dannosità di quando un bambino subisce continuamente queste aggressioni verbali che proprio dagli studiosi dell'Università di Pittsburgh sono stati considerati foriere di depressione clinica. Anche nel nostro centro troviamo spesso situazioni imbarazzanti, ecco, imbarazzanti. Quindi, che potrebbero essere evitate anche, dottor Novara, con un po' di buon senso. Allora, per salutarvi, vi facciamo ascoltare due consigli tratti dal manifesto del buon conflitto, perché, come afferma il dottor Novara, il problema non è non avere conflitti, quelli ce li abbiamo tutti, il problema è imparare ad avere buoni conflitti. Se hai imparato a saper gestire i momenti di crisi e di contrarietà, non avrai motivo di ricorrere alla violenza, né contro gli altri né contro te stesso, che puoi saper riconoscere e rispettare. Impara a comunicare e ascoltare anche in presenza di contrasti. Leggi il conflitto non come minaccia, ma come occasione di cambiamento. Così puoi sviluppare la tua competenza conflittuale. Dottor Novara, noi la ringraziamo per averci aiutato a litigare in modo sano, possiamo dire così? Certo, litigare bene, ecco, questo è lo scopo di una società evoluta, ecco, la società del futuro sarà la società che elimina le guerre ma aiuta le persone a litigare bene. Saluto anche Alberto Pellai. Alberto, noi di litigate ne abbiamo fatte, ma abbiamo imparato a farle bene. Fantastico, è veramente, quando poi con un amico si litiga bene, guarda, è una bella soddisfazione. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Strade, a volte è proprio il traffico che ci fa litigare, e subito dopo vi lascio con Deborah per la pagina di denari, anche il 26 di dicembre. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati insieme, adesso apriamo la nostra pagina dei denari, salutiamo Nicoletta Carbone che ci ha tenuto compagnia nella prima parte della nostra trasmissione, naturalmente proprio con gli argomenti di cuore, e in questo giorno di Santo Stefano, per tenervi compagnia in questa puntata speciale, abbiamo deciso di darvi alcuni consigli di lettura. Vi presentiamo tre libri che ci faranno, almeno lo speriamo, riflettere sui temi del risparmio e dell'economia, come sempre osservati dal nostro punto di vista, quello delle famiglie, quello dei consumatori, ma anche quello dei cittadini. Iniziamo con il primo. Riforme, privatizzazioni, mercato, liberalizzazioni, cambiamento strutturale, pressione fiscale, spesa pubblica, servizio del debito, flessibilità e crescita. L'elenco delle parole chiave che permeano il dibattito politico è lungo, ma vanno tutte a inserirsi in un solo modello di politica economica che poggia sull'azione del mercato, unico motore possibile per la crescita e il benessere. Nel corso degli anni, il pensiero unico del neoliberismo ha eliminato dall'agenda politica tutte le possibili alternative al mercato e all'impresa, idolatrati in ogni programma di governo. Invece il settore pubblico è diventato la zavorra, fatta di spese sterili, che crea debito e succhia risorse alla parte produttiva del paese. Le recessioni e il debito pubblico sono stati strumentalizzati per giustificare operazioni di politica economica finalizzate allo smantellamento del settore pubblico e dei beni e dei servizi pubblici. La stessa Unione Europea, agonizzante dopo le sconfitte referendarie dei primi anni 2000, tradizionalmente orientata a una visione inclusiva della società, aperta sia allo Stato che al mercato, si è tramutata in uno sponsor del neoliberismo, richiedendo ai Paesi membri di effettuare liberalizzazioni e privatizzazioni in ambiti fino a pochi anni fa chiusi all'ingerenza comunitaria. Eppure esistono delle alternative alla visione neoliberista, ma restano fuori dall'agenda politica e ai margini dell'opinione pubblica. E questo era un estratto di Con i nostri soldi, come vengono usate male le nostre tasse, come potremmo usarle meglio. L'editore è Ponte Le Grazie, gli autori sono Leopoldo Nascia e Andrea Baranes, e quest'ultimo in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E naturalmente buon Santo Stefano. Grazie. Volevo specificare, segnalare ai nostri ascoltatori che Andrea Baranes è presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, della rete di Banca Etica, portavoce della coalizione Sbilanciamoci, ma potrei ancora parlare a lungo per spiegare tutto il curriculum, e volevo ricordare agli ascoltatori che certamente li avranno letti che Andrea Baranes è anche l'autore di diversi libri di successo, per esempio Dobbiamo restituire fiducia ai mercati, falso, e poi il fortunatissimo Finanza per indignati. Ho detto tutto correttamente? Sì, tutto, grazie. Allora, andiamo al libro che invece presentiamo oggi. Io l'ho visto velocemente, sembra quasi un manuale di diritto pubblico sul quale rimettersi a studiare, Baranes, ma io non credo che voi vi siate voluti avventurare in questo senso, no, proprio nella stesura di un testo universitario. Il senso di questo lavoro è diverso. In sostanza avete voluto indagare dove finiscono i soldi che periodicamente come contribuenti versiamo allo Stato sotto forma di tasse ed imposte. Mi chiedo se alla termine del lavoro vi siete messi le mani tra i capelli. È un po' sì, diciamo, l'idea era a metà tra un manuale e un'inchiesta: da un lato cercare di spiegare nel modo più semplice possibile come funziona la finanza pubblica, quindi sì, in ultima analisi dove vanno a finire i soldi delle nostre tasse, e dall'altro cercare di capire nel merito quali sono le principali voci di spesa e appunto come vengono utilizzati i nostri soldi. La vostra analisi parte proprio dall'ABC: perché esistono le imposte, che funzione ha nella gestione di queste la pubblica amministrazione. Insomma, nelle prime pagine troviamo già una serie di definizioni, perché è anche giusto che il cittadino contribuente conosca i termini più appropriati per definire la cosa pubblica. Che ne dice? Sì, assolutamente così, appunto crediamo che sia necessario informarsi, capire un po', sentiamo ripetere quotidianamente sui giornali, media, parlare di finanza pubblica, di termini anche da dallo spread al debito, il PIL, recessione eccetera, ma poi molto spesso è difficile capire nel concreto che cosa significa finanza pubblica, cos'è la pubblica amministrazione, quindi la prima parte è proprio cercare di spiegare non con i termini che potrebbe avere un libro universitario o un manuale specialistico, ma alla portata di tutti, di cosa parliamo quando parliamo di pubblica amministrazione e finanza pubblica. E tra l'altro non è un caso che ovviamente una buona parte della vostra analisi la dedichiate ad un concetto che è andato molto di moda negli ultimi mesi, almeno a giudicare dalle inchieste che anche molti colleghi giornalisti hanno dedicato a questo argomento, che è quello della spending review, il risparmio nel settore pubblico. Ci dà la sua definizione di questo concetto? Spending review, uno dei tanti termini, forse troppi termini anglofoni che usiamo recentemente, vorrebbe dire rivedere, andare a controllare appunto i diversi capitoli di spesa. Questo si può fare da un lato andando a vedere quali sono le inefficienze per intervenire, potremmo dire chirurgicamente, o dall'altro potrebbe voler dire banalmente tagliamo qualunque spesa pubblica senza poi andare a vedere le ricadute. Quindi anche qui prima una definizione e poi un'analisi critica di quello che è stato fatto negli ultimi anni e delle proposte forse per delle alternative di razionalizzazione e riorientamento della spesa pubblica. E chissà se queste alternative le aveva trovate Baranes, anche Carlo Cottarelli, il commissario straordinario a questo settore, che non ha proprio avuto grandi possibilità di completare il suo lavoro. Adesso forse questa non è la giornata adatta per commentare questo aspetto, però effettivamente quello che è stato anche del suo lavoro ha assunto poi una piega giornalisticamente parlando interessante. Lei come giudica, come è finito, anzi non stato, come non è stato terminato il suo lavoro? Sì, mi sembra quello di Cottarelli, come molti altri tentativi, mi sembra ogni volta che c'è un tentativo di revisione di quelle che sono le comunque enormi inefficienze che si trovano in alcuni settori particolari, si scontrano poi contro interessi più o meno espliciti e evidenti, e diventa difficile poi andare a intervenire dove davvero si potrebbe intervenire. In questo mi sembra che il tentativo di Cottarelli poi interrotto possa essere letto anche in questa chiave, almeno in parte. Di fatto però insomma il suo lavoro a Palazzo Chigi da qualche parte c'è, cioè, chissà che prima o poi non venga riportato ripreso e magari rispettato nelle indicazioni che ha dato. E a proposito di questo, Baranes, noi leggiamo in molte inchieste sui giornali su dove si consumano gli sprechi nella cosa pubblica più scandalosi. Voi che cosa avete scoperto dal vostro punto di vista, dove si annidano, che versione ha su questa piaga che sembra veramente inguaribile? Ce ne sono diversi, sia a livello centrale sia poi a livello di enti locali. Chiaramente ad ogni livello si potrebbe intervenire per migliorare la spesa pubblica. Ecco, forse uno degli obiettivi del nostro lavoro era mostrare che molto spesso a dei tagli in alcune situazioni dovrebbero e potrebbero corrispondere invece investimenti in altri settori, e quindi forse più che parlare di spending review o di tagli to cure, si tratterebbe di reindirizzare e reorientare la spesa pubblica verso settori dove sarebbe assolutamente necessaria. Troviamo diversi servizi anche pubblici essenziali che non trovano i finanziamenti adeguati, e dall'altro lato degli sprechi che sono francamente inaccettabili. Quindi era più un'analisi per andare a vedere come potrebbero essere utilizzati molto meglio i soldi delle nostre tasse, anche come riorientare il fisco in modo che non vada a pesare sempre sui soliti noti. Per esempio, due indicazioni poi pratiche che date nel libro quali sono su come potrebbero essere reindirizzate queste risorse? Verso l'istruzione e la ricerca, ormai tutte le analisi, persino il Fondo Monetario, che insomma non è un'istituzione tacciabile di statalismo, segnala come tanto nell'Unione Europea quanto negli Stati Uniti un piano di investimento di lungo periodo, pensiamo alla mobilità sostenibile, pensiamo all'efficienza energetica, molti settori in cui un indirizzo di politica industriale, politica economica del pubblico potrebbe e dovrebbe essere attuata soprattutto in questo momento di recessione. Le risorse non dovrebbero venire da un aumento della pressione fiscale, ma appunto le risorse ci sono andando a prendere da altri settori in cui ci sono degli sprechi enormi, per reindirizzarla in ambiti in cui potrebbero sia creare posti di lavoro sia reorientare, pensiamo appunto l'efficienza energetica, l'investimento nelle rinnovabili, non solo gli impatti sull'ambiente ma anche in termini di posti di lavoro, in termini di sganciarci sempre di più dalla dipendenza energetica dall'estero. Insomma, sarebbero moltissime le ricadute positive da investimenti in questo e in altri settori. Barane, se tutte le volte che parliamo di sprechi della cosa pubblica, soprattutto in questi giorni in cui c'è grandissimo clamore intorno alle vicende di Mafia Capitale, siamo abituati a puntare gli occhi su Roma, che è naturalmente il luogo più importante per le istituzioni pubbliche, però come cittadini dovremmo forse interessarci a questo guardando intorno a noi, no? Ai nostri comuni, alle nostre province, agli uffici pubblici vicini a noi e di cui magari usufruiamo tutti i giorni. E certamente è anche a questo livello che si consumano sprechi ed inefficienze. Come cittadini, quali sono le attenzioni che a vostro avviso dobbiamo avere su questo? Dovremmo averne moltissime. L'idea un po' del libro, il lavoro che fanno organizzazioni, reti come Sbilanciamoci, che fa un'analisi critica ogni anno della legge di stabilità, vanno esattamente in questa direzione. Sono i nostri soldi, in ultima analisi, ripeto, sono i soldi delle nostre tasse, e quindi come quando io vado a comprare qualcosa al supermercato, sto attento a quello che compro, a quanto spendo, a cosa spendo, nello stesso modo nel momento in cui pago le tasse credo di avere non solo il diritto ma anche il dovere di andare a vedere per cosa sono utilizzate. Questo è vero dal livello locale, quindi comune, provincia e regione, fino a livello nazionale. Quindi immagino, credo il primo livello sia quello di informarsi, di capire come funzionano questi meccanismi, e più si è informati, più facciamo sentire la nostra voce, forse più è difficile che poi continuino a succedere degli scandali, delle cose inaccettabili come quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane. Prima dei saluti segnalo ai nostri ascoltatori che tutti gli altri capitoli sono dedicati ad argomenti molto interessanti, alle azioni dello Stato per gestire i conti pubblici, la legge di stabilità, un grande capitolo è dedicato naturalmente alle pensioni, e poi abbiamo le prospettive per i prossimi anni, così un po' nel pensiero etico che ha Andrea Baranes. Perché, per concludere, un cittadino italiano dovrebbe leggere questo libro? Credo appunto per informarsi, per capire i meccanismi sia in Italia sia a livello dell'Unione Europea. Da anni ormai sentiamo ripetere il mantra: è l'Europa che ce lo chiede, come se non ci fossero alternative qui in Italia. Crediamo che i meccanismi nell'Unione Europea, le decisioni di politica economica abbiano un indirizzo ben preciso, quelle in Italia hanno un indirizzo ben preciso, e come cittadini elettori, come consumatori, come persone che pagano le tasse, abbiamo, ripeto, sia il diritto sia il dovere di informarci, di capire come stanno le cose e di essere più attivi e di partecipare anche alla cosa pubblica. Grazie ad Andrea Baranes, autore, insieme a Leopoldo Nascia, di Con i nostri soldi, come vengono usate male le nostre tasse, come potremmo usarle meglio, editore Ponte alle Grazie. Buon Santo Stefano, a presto. Grazie a voi, alla prossima. E adesso linea al giornale radio, noi torniamo subito dopo con altri consigli di lettura. cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in questo Santo Stefano speciale con i nostri consigli di lettura. Andiamo ad un brano del secondo libro che vi proponiamo oggi. Per i nostri nonni, la regola aurea era di non fare mai debiti. Si risparmiava, si accumulava e alla fine si comprava. Semplice. Oggi invece ci indebitiamo per accedere a determinati beni e servizi, anche prima di aver accumulato il risparmio necessario per acquistarli. Ma perché lo facciamo? I motivi validi possono essere diversi. Pensiamo alla casa, per esempio. È il caso di chi si indebita per comprare l'auto che è necessaria per il lavoro di un rappresentante, di un medico, eccetera. Poi ci sono i motivi meno validi. Indebitarsi, invece di risparmiare, per andare in vacanza o per comprare un divano, non è teoricamente una scelta molto saggia. Eppure, nell'Italia degli ultimi anni, un numero crescente di persone ricorre ai prestiti proprio per accedere a beni e servizi che in astratto non possono certo essere considerati necessari. Come mai? E a questa domanda cercheremo di rispondere con il nostro secondo ospite di denari di oggi. La seconda lettura che vi proponiamo in questa puntata e che potrebbe accompagnarvi utilmente nelle prossime settimane è il libro Spread arrosto con patate, dal mutuo casa al bot, le ricette per non rovinarvi con le vostre mani, edito da Fazi Editori. L'autore è Fabrizio Ghisellini, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, impegnato da molto tempo sui principali media nella divulgazione della cultura finanziaria di base per le famiglie, che è collegato quest'oggi con noi. Dottor Ghisellini, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie. Allora, la racconta ai nostri ascoltatori, essendo in radio non possono vederla, la copertina del libro è già tutta un programma, un salvadanaio a forma di porcellino, servito arrosto su un letto di verdure, su un piatto da portata. Intanto, che cosa c'entra, dottor Ghisellini, la finanza con la cucina e perché ha voluto cimentarsi con la metafora culinaria? Perché va molto di moda, perché anche lei si cimenta volentieri ai fornelli o perché tutto sommato sono due mondi che si assomigliano? Ma guardi, la moda c'entra poco. In realtà io in cucina ci sono sempre stato, fin quando da piccolo venivo associato alla catena di montaggio con i miei genitori per fare i tortellini proprio per Natale, no? E l'abbiamo fatto anche quest'anno. E in cucina le cose fondamentali quali sono? C'è una cosa necessaria che sono le tecniche di base, quindi bisogna sapere come si fa la sfoglia, la maionese, eccetera. Poi però ci vogliono anche buon senso e colpo d'occhio. Ecco, diciamo in finanza è un po' la stessa cosa, perché bisogna assolutamente avere buon senso e colpo d'occhio, ma è fondamentale conoscere le tecniche di base. E diciamo lo scopo del libro è proprio quello di contribuire a questa conoscenza. E quindi in sostanza, quando facciamo anche scelte di investimento e risparmio, magari abbiamo tutti gli ingredienti, non sempre abbiamo il buon senso e qualche volta ci manca anche la tecnica. Ma dottor Ghisellini, prima di entrare nel merito dei vari capitoli, ci dice che cos'ha di diverso questo libro dai tanti altri che magari troviamo in libreria, che sono stati scritti sul tema dell'educazione finanziaria, proprio perché le nostre librerie ormai sono affollate anche di iniziative di questo tipo, ne fanno le associazioni dei consumatori e tanti autori, insomma, si lanciano in questa operazione. Lei cosa ha fatto di diverso? Ma guardi, io trovo che l'Italia sia un paese molto buffo, perché diciamo noi in altri campi abbiamo ad esempio operazioni benemerite come quella di Piero Angela, no, che ci spiega cosa sono i neutroni con parole semplici, che è sicuramente una cosa importantissima, ma non ha strettamente a che fare con la nostra vita quotidiana, mentre invece su tematiche come quelle affrontate nel libro, quindi i mutui, i bot, eccetera, le pubblicazioni che troviamo sono sostanzialmente divaricate, nel senso che o si tratta di appunto manuali di autodifesa del consumatore, no? Nei quali si scrive stai attento alla postilla, alla banca, eccetera. Oppure molte volte sono libri scritti dai professori per altri professori, quindi per persone che le cose le sanno già. Mi sembra che manchi completamente un manuale, diciamo, in stile anglosassone, che cerchi proprio di spiegare con parole semplici e passo passo proprio i concetti base che valgono sempre. Lei ha citato poco fa la parola mutuo e a questo argomento è dedicata una delle analisi più approfondite del suo libro, al tema diciamo in generale dell'indebitamento degli italiani, sui quali gli italiani si sono lanciati in maniera consistente negli ultimi anni, ma certamente in Italia non abbiamo vissuto un problema, come dire, all'anglosassone. Perché lei ha voluto fare un focus su questo? Ma guardi, in parte deriva un po' anche dal momento di crisi che stiamo vivendo, perché diciamo con un prodotto interno lordo che a livello italiano ormai sono anni e anni che decresce invece che crescere, chiaramente i risparmi purtroppo sono sempre di meno, mentre invece rimane l'esigenza per tantissime famiglie di fare dei mutui, soprattutto per i giovani che finalmente vogliono, beati loro, riescono ad andare via di casa, ma proprio perché appunto i soldi sono pochi, gli stipendi sono bassi, eccetera, diventa proprio essenziale non sbagliarli i mutui, quindi è un po' questo il motivo. Certo, allora i capisaldi del libro sono indebitarsi ed investire e per entrambi lei propone delle ricette. Ce le riassume rapidamente, dottor Ghiselin, e poi subito un'altra domanda, che è quella che le verrà probabilmente fatta molto spesso. Quali sono, secondo lei, gli errori più diffusi sul tema finanziario che gli italiani ancora fanno? Sì, ma guardi, le ricette, allora, se parliamo di mutui, diciamo che non esiste il mutuo perfetto per tutti, perché la prima cosa che noi dobbiamo guardare quando vogliamo accendere un mutuo è la nostra situazione, quindi la situazione di reddito che abbiamo, che tipo di lavoro facciamo, quanti anni abbiamo, quindi perché questo? Perché ad esempio nella scelta fra il mutuo a tasso fisso e a tasso variabile, è chiaro che essendo il tasso variabile soggetto alle oscillazioni di mercato, sarà più appropriato, tutte le altre cose essendo uguali, per magari chi fa lavoro autonomo, un commerciante, diciamo una persona il cui reddito può variare magari come varia l'inflazione e quindi è diciamo tendenzialmente più coperto rispetto alla volatilità dei tassi, no? Quindi il tasso variabile è più adatto per lui che per una persona che invece magari ha uno stipendio fisso magari congelato, no? Come sono ad esempio quelli dei dipendenti statali degli ultimi 6 anni. Andiamo invece agli errori più diffusi tra gli italiani, dottor Ghiselin. Ma guardi, gli errori più diffusi tra gli italiani, allora in generale, e qui mi ci metto anch'io, poi le dirò perché, l'errore più comune che noi facciamo quando scegliamo come indebitarci o come investire è che guardiamo più a quello che è successo fino ad oggi che alle prospettive future. Esempio, per quanto ad esempio riguarda i mutui, tutti noi abbiamo visto che nel corso degli ultimi 2 anni i tassi a breve termine, l'Euribor, che è il tasso a cui vengono indicizzati i mutui a tasso variabile, quei tassi lì sono praticamente diventati zero. E che è successo? È successo che naturalmente nel 2014 la richiesta di mutui a tasso variabile è esplosa, è passata dal 55 al 65 del totale. Questo fa capire che noi guardiamo soprattutto al passato, perché ovviamente essendo quei tassi lì, i tassi a breve termine, ormai zero, non possono fare altro che salire. Quindi implicitamente un certo rischio. E quindi insomma gli errori sono questi, gli italiani guardano al passato, agli errori fatti anche nel passato e spesso si lasciano condizionare da questi per le scelte da fare invece nel futuro. Dottor Ghiselin, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma in 10 secondi mi dica un po', secondo lei chi dovrebbe leggere Spread Arrosto con Patate? In 10 secondi. Tutti naturalmente, però in particolar modo. Sì, no, Spread Arrosto con Patate è il libro veramente per tutti, perché purtroppo in Italia non è una questione di educazione, perché io ho degli amici carissimi di famiglia che sono plurilaureati, ma essendo plurilaureati magari in archeologia o in filosofia di queste cose qui non capiscono nulla, quindi è un libro per tutti. E quindi insomma la finanza spiegata un po' come si seguono le ricette passo per passo. Grazie a Fabrizio Ghisellini, autore di Spread arrosto con patate, edito da Fazzi Editore, e noi adesso passiamo al prossimo consiglio di lettura. Investire il proprio denaro è facile. Ogni giorno migliaia di persone lo fanno. È investire con consapevolezza che è difficile, molto difficile. E arriviamo al nostro terzo consiglio di lettura per questa puntata speciale di Santo Stefano. Il libro in questo caso si intitola I miei soldi, proteggerli, farli crescere, dormire tranquilli. Edito dal Sole 24 Ore, l'autore è l'ingegner Claudio Morici, per 25 anni branch manager di una grande banca internazionale. Ingegner Morici, intanto buongiorno, possiamo anche dire responsabile per l'Italia di una grande banca internazionale? Possiamo tradurre così? Ma no, non responsabile per l'Italia, ma responsabile di un ufficio importante. Benissimo. Allora, anche lei ha voluto dare il suo contributo sul tema dell'educazione finanziaria, partendo dall'assunto che abbiamo appena ascoltato. Investire il denaro, tutto sommato, è facile, perché lo fanno ogni giorno migliaia di persone, però il tema è quello della consapevolezza. Anche se è difficile che lei ci parli appunto in modo semplice, perché oggi è il 26 dicembre, cerchiamo di rendere questa giornata di festa semplice su questi argomenti. Ingegner Morici, ci può spiegare, quando parliamo del rapporto fra il cittadino italiano e il suo denaro, in che cosa manca la consapevolezza? Allora, noi sappiamo che fino a pochi anni fa il risparmiatore italiano investiva prevalentemente in immobili e titoli di Stato, investimenti che percepiva come sicuri. Ora non è più così e, venute meno le certezze, bisogna in qualche modo ricostruirle. Bisogna allora guardarsi intorno e volgersi al vasto mondo degli strumenti di investimento. Mi chiedeva della consapevolezza. La consapevolezza discende necessariamente dalla conoscenza. Un investitore è consapevole quando sa definire i propri obiettivi, e in quanto tempo vuole raggiungerli, quali strumenti utilizzare, quali sono i rischi potenziali. Chiaramente tutto questo non è certo una passeggiata per un investitore, certo, normale. Però insomma, leggendo e documentandosi, magari qualche passo avanti lo si può fare. Ci può fare un breve indice del libro? Quali sono i temi più importanti che tratta? Ci faccia lei un biglietto da visita. Sì, va bene. Allora, il libro è diviso in 5 parti. Nella prima dà un po' di cultura finanziaria, parlando di obiettivi, rischi, inflazioni, mercati, cicli economici e in particolare della necessità di diversificare come fare. Nella seconda parte, invece, tratto i due possibili approcci all'investimento, cioè il fai da te oppure farsi consigliare dai professionisti. Parlo poi dei diversi tipi di società a cui un investitore può rivolgersi, quindi banche, assicurazioni, fiduciarie, società di consulenza. Ecco, dopo aver descritto diversi canali, prendo per mano il lettore e lo porto come a fare un giro dietro le quinte, dicendogli anche quello che normalmente non si dice. Le faccio... Parlo al lettore, sì. Scusi, come si fa fra amici? Ah. E fra amici si dice tutto. Benissimo. Insomma, ci piacerebbe effettivamente che il consulente finanziario che scegliamo ci trattasse come un amico. Non sempre è possibile, anche perché naturalmente abbiamo dei professionisti davanti a noi che giustamente devono anche tenere un rapporto professionale. Ma io le faccio la stessa domanda che ho fatto all'interlocutore precedente. Qual è la differenza fra il suo libro e gli altri libri che trattano lo stesso argomento? Perché se noi entriamo in libreria, ingegner Morici lo sa, ne troviamo tanti sull'educazione finanziaria, no? E quali sono i modi diversi in cui lei spiega temi che ormai iniziano ad essere trattati da moltissimi attori, sì, e soggetti? Allora, naturalmente io non conosco tutti gli altri libri, anzi, conosco solo quelli che ho letto, che sono poco più di una ventina. E poi fare generalizzazioni è sempre sbagliato, ma devo essere sintetico. Allora, di libri su questi argomenti, come diceva lei, ce ne sono tantissimi e nessuno sentiva la necessità che anche io ne scrivessi uno. Mi dicono però che il mio è diverso, perché non è convenzionale. Intanto, se permette, è diverso l'autore. Mentre gli altri autori sono economisti, direttori di marketing, giornalisti, professori universitari, io sono ingegnere, vengo perciò da un altro mondo, ho un background e una forma mentis diverse. L'ingegnere deve capire, conoscere gli strumenti, saperli utilizzare per raggiungere gli obiettivi. A me non interessa l'economia, non interessa la finanza, a me interessa l'investitore. Se posso usare una metafora ittica, gli altri libri parlano del pesce. A me interessa insegnare a pescare. E allora, lei ha creato delle grandissime aspettative, adesso naturalmente vedremo se saranno rispettate. Intanto propongo ai nostri ascoltatori un altro estratto, un po' più lungo del precedente, dal suo libro. Tutti noi umani investitori siamo dominati dall'emotività. Tuttavia, ci piacerebbe che le nostre scelte fossero dettate dal ragionamento. E spesso crediamo che sia così. L'oggetto più complesso che finora abbiamo incontrato nell'universo è il cervello umano. 100 miliardi di neuroni, ma ve ne sono molti miliardi anche nell'intestino, per cui l'espressione ragionare con la pancia ha qualche fondamento, sono connessi in modo esponenziale. Qui si formano i nostri pensieri, ragionamenti, sentimenti. Siamo il risultato di 4 miliardi di anni di evoluzione. Ognuno di noi esiste perché la catena dei suoi antenati, dalla prima cellula fino alla sua mamma, è fatta da individui che hanno vinto tutti alla lotteria della vita, riuscendo a campare almeno fino alla riproduzione. Nel susseguirsi delle più diverse situazioni ambientali e di relazione con le altre creature, i membri della catena si sono sempre comportati con successo, con l'atteggiamento fisico e mentale adeguato a sopravvivere. E quindi sono stati di volta in volta timorosi e fuggitivi, coraggiosi e aggressivi, riflessivi e prudenti. Questi modi di essere sono geneticamente in tutti noi, in quantità variabile fra gli individui, ma anche per ciascuno variabile secondo le situazioni. Quando parliamo di psicologia dell'investitore parliamo del tema più complessivo, che è quello della finanza comportamentale. Ingegner Morici, lei come ritiene che si debba gestire l'emotività quando si tratta di fare una scelta di investimento? Perché basti guardare un po' a quello che sta succedendo sui mercati in questi giorni, tenere a bada l'emotività è difficile. Sì, allora per un investitore, per i risultati che raggiunge un investitore, secondo me i sentimenti sono la cosa più importante, più dell'economia e più della finanza. L'emotività è il grande nemico del risparmiatore che tende sempre a fare la cosa sbagliata nel momento sbagliato, compra i massimi, vende i minimi. E perciò è importante che l'investitore non sia lasciato a se stesso, ma sia seguito da un professionista che lo aiuti a gestire anche la sua emotività. Lei dedica molti capitoli nel suo libro al tema del tempo. Perché questa è una variabile così importante nelle scelte finanziarie? Perché il tempo lavora per l'investitore. In realtà il tempo è il suo miglior amico. Il tempo trasforma in un investimento dal valore variabile come le azioni, lo trasforma in una ragionevole certezza di guadagno. Basta saper aspettare. E aggiungo, facendo lavorare anche l'altra sua grande amica, che è la diversificazione. Un'altra cosa importante è che, scaglionando nel tempo gli investimenti e sfruttando le oscillazioni stagionali dei mercati azionari, possiamo migliorare il rendimento e ridurre il rischio. Il tema della diversificazione è molto importante perché storicamente gli italiani sono abbastanza abituati a concentrare tutta la loro ricchezza o in immobili o per esempio in titoli di Stato, no? È ancora così, ingegner Morici? Gli italiani sono ancora portati a mettere tutte le uova in un paniere o hanno preso più confidenza con l'importanza della diversificazione? Intanto gli italiani oggi diversificano molto di più. Nel libro ci sono due messaggi forti che sto continuando a ripetere, lo sto ripetendo anche adesso. Il primo implicito è che il mondo degli investimenti è così complesso che è meglio farsi aiutare dagli esperti. Il secondo messaggio invece esplicito riguarda la diversificazione. Per ridurre il rischio bisogna diversificare frazioni, obbligazioni, risparmio assicurativo, immobili, anche le azioni vanno diversificate per settori, aree geografiche e così via. Insomma, diversificare è una cosa molto complicata. Si torna allora al primo messaggio, che è meglio farsi aiutare dagli esperti. Ma anche scegliere l'esperto è un lavoro molto complesso e lei dedica un'analisi naturalmente anche a questo. Non sveliamo oltre, i nostri lettori e ascoltatori così magari andranno a curiosare sul libro. Chiudiamo, ingegner Morici, con una chicca: che cosa sono i cigni neri? Allora, il cigno nero è un'espressione che ormai è entrata nell'uso comune, deriva da un libro di Nassim Taleb. In buona sostanza il cigno nero è un evento che ha conseguenze rilevanti ma che non era stato previsto perché è statisticamente poco probabile. Per esempio un asteroide che colpisce la Terra, oppure in campo finanziario il crollo generalizzato delle borse oltre il 50%, oppure quello che stiamo vivendo adesso, che è forse l'inizio di un cigno nero. Sono eventi di questo tipo che condizionano e indirizzano la nostra vita, non la routine quotidiana. Negli investimenti i cigni neri sono inevitabili, quello che occorre fare è mettersi in condizione di gestirne le conseguenze, ridurne l'impatto e magari trarne profitto. Ad esempio, è opportuno mantenere sempre una riserva di liquidità da investire dopo un crollo di borsa, e in questo modo possiamo smacchiare il cigno nero. E magari, insomma, documentandosi al meglio si possono cercare di prevenire tutti questi rischi e queste problematiche per chi gestisce il proprio denaro. Grazie all'ingegner Claudio Morici, autore dei miei soldi, proteggerli, farli crescere e dormire tranquilli, edito dal Sole 24 Ore. Grazie anche a lei. Qui la settimana, cara Nicoletta, ma so che tu tornerai puntuale lunedì alle 11. Certamente, sono già pronta. Allora io vi aspetto, mi raccomando, non mancate. Intanto buon Santo Stefano, buon weekend, a lunedì.